Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. Ciao Simona. Ciao Federico, buonasera a tutti e tutte. Cominceremo col parlarvi di... di anestesia. Vi portiamo quindi dentro una sala operatoria per capire che cosa succede nel nostro cervello sotto anestesia. E poi siamo bipedi, ma com'è che si fa a diventare bipedi? E poi chiudiamo con l'intelligenza artificiale, ne esaminiamo alcuni aspetti singolari. E allora via. È ovvio, Federico, praticamente senza qualsiasi intervento chirurgico, anche il più banale, sarebbe effettivamente molto doloroso, sarebbe una piccola grande tortura. Stiamo parlando dell'anestesia. Che può essere considerata, molti la considerano e secondo me giustamente, una delle più grandi invenzioni di sempre, per i suoi riflessi, ovviamente medici, ma anche perché era veramente un inferno. Si operava, no? Si operava ugualmente con, credo, dimensioni umane, psicologiche spaventose. Era prima del 1864, perché al 1864 risale la prima anestesia. Ma cosa sappiamo dell'anestesia? Cioè, come funziona? Che cosa innesca nel nostro cervello? Ne parliamo con Luigi Beretta, primario dell'unità operativa anestesia e rianimazione neurochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Buonasera Beretta. Buonasera Benetta. Senta, è vero che siete in grado di applicarlo in modo molto raffinato, però non è vero che sappiamo bene come funziona. Diciamo che sappiamo abbastanza bene come funziona, ma come sempre in tutte le cose, non tutti i meccanismi sono ancora completamente noti. Però riuscite a usarla. Beh, se non si riuscisse a usarla, diciamo che ci sarebbero dei grandi problemi. Grandissimi. In questo istituto vengono fatte 30.000 anestesie all'anno, 30.000 anestesie all'anno solo in questo ospedale. Solo in un ospedale. Immaginiamo nel mondo. Ecco, allora cerchiamo di capire, di raccontare a chi ci sta seguendo che cosa succede nel cervello quando viene iniettato o inalato un anestetico. Che cosa fa sì che in qualche modo sprofondiamo in una sorta di stato di incoscienza, ci addormentiamo? Ha detto molto giusto che l'anestesia è endovenosa o inalatoria. Ora, pensiamo alle basi dei vecchi tempi, dei tempi del West. Cosa facevano per estrarre un proiettile da una gamba e incidere, no? Davano al cowboy da bere del whisky, no? Sì, una bottiglia intera. Esatto, una bottiglia di whisky, quindi diciamo che non toglieva il dolore, ma sicuramente faceva a dosi alte, come dire, tra virgolette, sempre addormentare. Una sorta di primitiva anestesia. Poi si è passati all'etere, fino a che oggi appunto abbiamo degli scenari di una moderna anestesia, che come ha detto prima può essere endovenosa, che come ha detto prima può essere inalatoria, cioè una è fatta attraverso un'infusione endovenosa, l'altra c'è una miscela di gas che passano attraverso un tubo, che è il tubo che porta l'ossigeno e l'aria nei polmoni. Diciamo che i meccanismi sono molto simili. Noi che siamo coscienti lo siamo perché funzionano molto bene alcune parti del cervello, che sono la corteccia e la sostanza reticolare ascendente che è posta nel tronco. Questi farmaci hanno delle azioni specifiche sui neuroni o sul collegamento tra questi neuroni, e queste azioni che si sviluppano molto spesso sulle membrane fanno sì che questi neuroni funzionino poco o meno, e quindi avviene il sonno, l'incoscienza. Cioè, praticamente questi farmaci innescano una sorta di disincronizzazione tra diverse aree del cervello, per cui non avviene più la corretta comunicazione, e quindi il mio corpo sta subendo un taglietto che mi provoca dolore, però dalla corteccia sensoriale non si dipana la comunicazione al resto delle aree cerebrali. Cioè non è che viene però troncata la comunicazione, come se l'audio del telefono fosse completamente abbassato, una cosa del genere. Il meccanismo è reversibile, ovviamente. Lei deve pensare che quando un paziente è in sala operatoria per un intervento maggiore, in quel momento il paziente ha il grado di coma più grave che esista, cioè non è capace di respirare da solo, non è capace di capire. In questo caso, nell'intervento chirurgico, è anche totalmente deafferentato dal dolore perché vengono somministrati farmaci potenti per il dolore. Diciamo che nell'intervento importante, grosso, perché poi ci sono tante sfumature, no? Certo. Molti interventi vengono fatti con una sedazione, piccoli interventi, la sedazione cosa vuol dire? Si provoca solo il sonno al malato, non l'incoscienza totale. Per fare una buona anestesia bisogna controllare più cose, quindi che il malato sia anestetizzato e che quindi non abbia la percezione di ciò che succede, che il malato abbia una protezione farmacologica contro il dolore che comunque riceve e che il malato sia paralizzato. Questo per consentire al medico, al chirurgo, di operare in tranquillità, senza interferenze, senza movimenti che potrebbero ostacolarlo. E consente che il malato possa essere ventilato da dei ventilatori, perché appunto incapace di respirare viene ventilato da delle macchine. Ecco, lei prima, Beretta, diceva che è una condizione reversibile, cioè sprofondiamo in questa sorta di sonno che può essere più o meno, insomma, l'anestesia può essere di livelli diversi, ecco, però è reversibile. Poi come ci svegliamo? Meno male che è reversibile. Assolutamente. No? Ecco, poi certo. Però cosa ricordiamo dell'esperienza vissuta sotto i ferri del chirurgo? Purtroppo se l'anestesia non è stata somministrata in maniera corretta, ci sono delle problematiche intraoperatorie per cui il malato ricorda degli eventi o ascolta delle parole che si sono dette in sala operatoria, ma questo è un errore. L'anestesia ben condotta impedisce che tutto il periodo intraoperatorio sia un ricordo per il paziente. Deve quindi, essere così. Quindi, certo che deve essere così, quindi deve essere un periodo in cui di cui il paziente non ha assolutamente nessuna traccia. Ecco, ancora una curiosità però, a volte il risveglio, se non sbaglio soprattutto nelle persone di una certa età, è accompagnato da una sorta di delirio, è così? E che cosa si può fare per evitarlo? Il delirio è un problema che viene spesso attribuito all'anestesia e effettivamente l'anestesia concorre un pochino in questo, ma il delirio perioperatorio, che è, come ha detto lei, più tipico del soggetto anziano piuttosto che del giovane, è qualcosa che riguarda tutte le componenti dell'atto chirurgico e del ricovero ospedaliero. Le faccio un esempio. Se lei prende una persona molto anziana, la ricovera in ospedale 2 giorni e a questa persona non fa nessun intervento chirurgico, questa persona probabilmente 2 giorni dopo, da un punto di vista cognitivo, non è la persona che è entrata in ospedale. Figuriamoci se fa un intervento maggiore, se sente male, se ha perso molto sangue, se ha fatto dei farmaci dell'anestesia che magari ha un'emivita molto lunga, cosa che ormai non si usa più. Beh, tutta questa somma di cose concorre nel provocare il delirio. Oggi cerchiamo di fare sì che il ricovero e quindi la qualità del ricovero del malato nell'ospedale sia la più semplificata possibile, in modo tale che il paziente si possa alzare più velocemente possibile dal letto, che possa camminare, deambulare, comunicare, perché se lasciamo questo paziente allettato per giorni e giorni, certamente già solo quello, quindi non l'anestesia, concorre nel provocare il delirio. Bene, mi pare che i fondamentali li abbiamo capiti. Beretta, buona ricerca e buon lavoro. Buona Grazie serata. A voi. Oh, mi raccomando, non dormite alla guida. Il traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Negli Stati Uniti abbiamo incontrato Jeremy De Silva, che è un paleoantropologo che lavora e fa ricerca al Dartmouth College e lui si interessa di bipedi. E quindi noi gli abbiamo chiesto perché siamo bipedi, ma soprattutto noi siamo abituati a stare agli impiedi e a muoverci su 2 piedi. In effetti, forse senza rendercene conto, tutto questo comporta un continuo assestamento per mantenerci in equilibrio, sì. Per essere in equilibrio. Tanto che la nostra curiosità è questa, insomma, abbiamo un software nel cervello che governa questa postura e questa andatura che ci fa star bene in piedi su 2 piedi? Esatto, ed è questo che gli abbiamo chiesto. La sua risposta. That's a great question, and I think there are 2 ways I would answer it. And the first is that chickens are bipedal, right? Chickens have the same problem. Chickens move around on 2 legs, And so they probably have the software you're describing as well, but it doesn't. Lui dice, questa è una bella domanda, perché in effetti ci sono diversi aspetti da considerare, soprattutto due. Il primo è che prendiamo i polli, loro sono bipedi, no? Hanno lo stesso problema nostro e si muovono in giro con due gambe, e allora evidentemente loro hanno questo software a cui voi fate riferimento, ma questo non significa che siano degli animali particolarmente intelligenti, e anche altri uccelli sono bipedi. Poi dopo, se consideriamo gli animali che sono a noi più vicini, più parenti, gli scimpanzé, gli orangutani, i gorilla, i gibboni, ecco, loro in parte nel loro sistema locomotorio hanno il bipedalismo, ma poi invece in molti altri momenti non lo sono. But geez, it's not perfect because we fall on our faces all the time, right? So humans are. Allora qui il problema è che evidentemente ci sono molti animali che possono essere bipedi, ma poi il grande caso, insomma, dell'evoluzione, il fatto che è una grande macchina che casualmente favorisce alcuni processi piuttosto che altri, fa sì che alcuni potrebbero esserlo ma non lo sono. Invece quello che a noi è capitato è che si è sviluppato questo software per riuscire a negoziare, no, con la gravità costantemente, frazione di secondo per frazione di secondo, il nostro equilibrio, e quindi siamo diventati bipedi. Dopodiché allora gli abbiamo chiesto, beh, ma allora vuol dire che non è particolarmente importante, no, Simona, essere intelligenti, molto intelligenti per essere bipedi? E lui ha risposto. Exactly, exactly, I think that's well put. Esattamente, penso proprio che questo sia il punto. Essere bipedi non è sinonimo di essere particolarmente intelligenti o più intelligenti di altri. Insomma, Jeremy De Silva ci ha portato, ci ha fatto tornare un po' di più con i piedi per terra. Adesso però, Federico, voltiamo pagina, cambiamo argomento, parliamo infatti, come annunciato nei titoli, di intelligenza artificiale. A te la parola. Il mondo dato è il titolo di questo saggio di Cosimo Accotto, che è qui con noi. Buonasera, Accotto. Salve. Il mondo dato, quindi quello che c'è, quello che ci si dà. Sì. Però c'è anche il dato dentro, il big data per esempio, c'è anche un riferimento a questo? Sì, il titolo è un gioco linguistico, se vuoi, che richiama esattamente questi due aspetti. Da un lato dice il mondo che ci è stato in qualche modo consegnato e che viene disegnato quotidianamente dalle nuove tecnologie, e che però, come dire, hanno un cuore pulsante che è effettivamente il dato. Il dato. Quindi la quantità, il numero, la misura delle cose, diciamo. Cinque brevi lezioni di filosofia digitale è il sottotitolo, con una prefazione di Alex Pentland, edito da Egea. Tu sei qui perché vogliamo parlare di intelligenza artificiale in senso lato, perché l'argomento un po' più specifico che tratteremo, quello degli algoritmi, fa parte di... non è tutto... fa parte, diciamo, di questo. E buona parte, diciamo. Però è buona parte. E cercheremo anche di sciogliere alcune immagini che sono errate nel pubblico normale che non è addetto ai lavori. Tu, tra l'altro, sei visiting scientist al MIT di Boston e stai lavorando esattamente su queste cose. Cominciamo da questa distinzione che credo gran parte delle persone che ci ascoltano non vedono, non conoscono. C'è il software e c'è l'algoritmo, e si tende però a dire, vabbè, insomma, il software è un algoritmo e viceversa, perché poi tutte e due finiscono, no? Insomma, tutte e due, no, non tutte e due, quella roba lì finisce dentro una macchina che processa. Vogliamo incominciare a fare una distinzione tra questi due strumenti? Sì, hai ragione, molto spesso i due termini vengono in qualche modo sovrapposti e confusi. Non è semplicissimo distinguerli, e quindi capisco, come dire, la difficoltà. Se vogliamo usare una immagine, potremmo dire questo, che l'algoritmo è, se vuoi, un insieme di istruzioni che dicono alla macchina che tipo di attività performare. È come se fosse la ricetta per fare un dolce. La ricetta per fare un dolce è, come dire, si compone di una serie di istruzioni per fare il dolce. Devi prendere tot. Devi prendere tot farina, in una certa sequenza. In una certa sequenza. Dosare certe cose e alla fine il risultato che ottieni è il dolce. Naturalmente questa serie di istruzioni può essere codificata in linguaggi differenti. Le ricette le troviamo scritte su un libro che dicono con un linguaggio testuale che istruzioni devo seguire, piuttosto che potrei queste istruzioni filmarle. Certo, quindi utilizzare oggi, un altro linguaggio. Quindi se vuoi il codice software è questo linguaggio che in qualche modo abilita questa serie di istruzioni per fare accadere. Cioè l'algoritmo cose. È ti dico cosa devi fare e il software riceve questa informazione e si mette al lavoro. Esattamente. E mette insieme. E la traduce in un linguaggio che una macchina fa. Può capire. Esattamente. Questa differenza è significativa perché con gli algoritmi noi diciamo alle macchine, ai computer, diciamo dove andare. Cioè, diciamo, fammi una torta di cioccolato oppure fammene una di mele. Sì, esattamente. E quindi c'è un'intenzione nell'algoritmo. Gli algoritmi sono un prodotto dell'intelligenza umana e l'intelligenza umana costruisce gli algoritmi perché facciano per conto nostro delle cose. Finora è stato abbastanza così, nel senso che gli ingegneri, i programmatori, gli statistici hanno costruito con un'intelligenza umana degli algoritmi sufficientemente chiari. Oggi sta accadendo un passaggio importante e significativo. Gli algoritmi li scrivono, cominciano a scriverli direttamente le macchine. E molto spesso questi algoritmi risultano delle scatole, nere. Delle scatole nere, nel senso che, ed è magico, una delle parole che circolano nei workshop, nei seminari che all'MIT vengono frequentemente, come dire, proposti anche pubblicamente, è magic. Magic. È magico, cioè funziona. Ma non sappiamo dire esattamente perché. Perché lo ha fatto una macchina con una intelligenza aliena. Sua, diciamo. Senti un po' però, volevo farti fare un'altra distinzione. Perché quando gli algoritmi che usa Google o Amazon, no? Applicati al suo software, che è quello che fa tutte le interazioni con la gente, no? E quindi va a vedere alcune cose che interessano a Google in funzione, per esempio, del generare più contatti, del recuperare informazioni per della pubblicità. Allora, in quel caso c'è un'intenzione che ha costruito un algoritmo per andare a fare quella cosa. Dopodiché, invece, ci sono anche degli algoritmi che vengono progettati per avere una loro autonomia e tu dici, questi qui portano a casa delle cose, ma non sappiamo come facciano. Ci sono entrambe, no? Queste... Ci sono entrambe, nel senso che gli algoritmi sono una produzione storica dell'intelletto umano e l'intelletto umano oggi lavora dentro una società di mercato che in qualche modo costruisce e disegna questa intenzionalità, nel senso che i motori di ricerca hanno delle finalità e degli obiettivi di mercato, i social network hanno delle finalità, quelli ovviamente, come dire, a produzione commerciale, quelli per cui l'advertising paga l'advertiser, cioè l'azienda che intende promuovere il proprio prodotto paga per essere presente, per essere visibile. Sicuramente c'è una parte di intenzionalità guidata dalle regole, se vuoi, di mercato, che gli attori oggi presenti, in particolare le compagnie digitali, che sono quelle che fanno più uso di algoritmi, mettono in campo. Dopodiché c'è, come dicevamo, questo passaggio invece un po' particolare per cui oggi la necessità di creare algoritmi sempre più sofisticati, sempre più complessi, richiede di appoggiarsi alle macchine per farlo. E questo appoggiarsi alle macchine per elaborare, come dire, informazioni anche molto complesse, spesso produce dei risultati che possono non essere così eque rispetto alla società in particolare e all'economia. Questo è particolarmente, se vuoi, rilevante nel caso di discriminazioni algoritmiche. Ti faccio fare due esempi. Allora, digitando all'interno di un motore di ricerca, stringa la ricerca per acconciature professionali femminili, il motore di ricerca restituisce immagini di donne bianche, perfettamente con varie pettinature acconciate. Diciamo, professionalmente acconciate. Se uno cerca sempre nello stesso motore invece la stringa acconciature femminili non professionali, il risultato iconografico che gli viene restituito è immagini di donne, di acconciature di donne di colore. E questa, come dire, questa parla da sé. C'è un passaggio nel tuo testo nel quale tu dici che questi problemi addirittura potrebbero diventare forti anche per l'industria, per la produzione. Siamo ai primordi di una società, di un mercato in cui la mano invisibile, che ci ricordano gli antichi economisti, è invisibile non tanto perché ci si auto-organizza, ma perché c'è un disegno, un meccanismo e una dinamica algoritmica che alcuni dicono disegnano i mercati, la società contemporanea. Questa è una preoccupazione, devo dire, che sia a destra che a sinistra, se la vogliamo vedere dal punto di vista della riflessione, se vuoi, di politica economica, è presente. Il pensiero più estremo di sinistra parla proprio di algoritmi di sfruttamento. La preoccupazione però è, diciamo, è la medesima anche, se vuoi, da parte del pensiero liberista in qualche modo, perché ci si rende conto, un po' come anticipavi tu, che questi strumenti, questi meccanismi disegnano dei mercati le cui logiche non sono probabilmente più quelle che abbiamo conosciuto fino ai nostri giorni. Il mondo dato, scritto da Cosimo Accotto, 5 brevi lezioni in filosofia digitale, edizioni Egea. Grazie e buon lavoro. A voi, grazie molte. Anestesia, bipedi e intelligenza artificiale. Abbiamo messo insieme cose molto diverse fra un menù ricco e variegato. Con questo vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Buona settimana a tutti e a tutte.